Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Una ricerca italiana pubblicata sull'Lancet Respiratory Medicine ha analizzato i danni che il Covid provoca ai polmoni. Secondo lo studio, che ha coinvolto 301 pazienti, quando il virus provoca un doppio danno al polmone, rovinando sia gli alveoli che i capillari polmonari, la mortalità dei pazienti in terapia intensiva aumenta sensibilmente. A Obiettivo Salute, il commento del professor Marco Ranieri, direttore dell'anestesia e terapia intensiva polivalente del Policlinico Sant'Orso, che ha coordinato lo studio. Buongiorno professore. Buongiorno. Lo studio apre implicazioni importanti per la gestione organizzativa di questi pazienti, per la cura e anche in prospettiva per lo sviluppo delle ricerche future. Dal punto di vista organizzativo, la identificazione di questo gruppo, questo sottogruppo, di questo fenotipo che è caratterizzato dal cosiddetto doppio danno, cioè la capacità del virus di danneggiare sia la componente alveolare, quella dove si realizza lo scambio di gas, sia la componente vascolare del polmone, quella attraverso cui si realizza il trasporto del gas, dell'ossigeno dal polmone agli organi periferici. Identificare questo gruppo di malati con un test che sono eseguibili in tutte le terapie intensive consente, dal punto di vista organizzativo, di collocare questi malati nelle aree a più alta intensità, riservando solo a loro questa enorme quantità di risorse, lasciando invece i malati con il danno singolo su strutture dell'area critica a intensità intermedia. Dal punto di vista assistenziale, ci dà la possibilità di riservare per questi malati le forme più aggressive di cura, quali la ventilazione meccanica superprotettiva, la circolazione extracorporea, la rimozione extracorporea dell'anidride carbonica. Dal punto di vista della ricerca, la identificazione di questo gruppo ci dà uno strumento formidabile per poter orientare la ricerca sulla validazione di questi nuovi farmaci che sono in corso di sperimentazione, per consentire di selezionare il gruppo di pazienti in cui questi farmaci possono dare il maggior beneficio. Professor Ranieri, quindi selezionare i pazienti e intervenire tempestivamente, questo può fare davvero la differenza, ma operativamente che cosa pensate di fare? Operativamente noi pensiamo dal punto di vista organizzativo, di utilizzare questi due parametri che ci consentono la identificazione in maniera semplice e di utilizzarli per selezionare la popolazione che deve essere collocata nelle aree a maggiore intensità di cura. E su questa ottimizzazione del percorso assistenziale, concentrare il maggiore livello di intensità, fare quanto più possibile circolazione extracorporea, quanto più possibile rimozione extracorporea di CO2 e dare il massimo dell'intensità per poter andare dal doppio danno al singolo danno e così avere una prospettiva dal punto di vista di miglioramento dell'outcome, della sopravvivenza. Per quanto riguarda la ricerca, utilizzare questi criteri per selezionare la popolazione su cui validare i nuovi farmaci che stanno per essere proposti. E per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiamo domani puntuali dopo il GR delle 6. Buona giornata da Nicoletta.